A bordo campo di Dario Ricci. La deliberazione approvata, Roma candidata città italiana. La voce, quella del presidente del CONI, Gianni Petrucci. La data, chissà, potrebbe diventare una data storica. 19 maggio 2010, il giorno in cui l'Italia ha scelto la città che la rappresenterà come candidata alla corsa per ospitare i Giochi Olimpici del 2020. Roma batte Venezia in modo netto, secondo quanto deciso dalla giunta del CONI e poi deliberato dal Consiglio nazionale del nostro comitato olimpico, 32.3 contro 20.1, questi due quozienti ottenuti dalle due città candidate e decisione ratificata dal Consiglio nazionale con 68 voti e un astenuto. Quindi Roma rappresenterà l'Italia nella corsa alle Olimpiadi 2020, intendiamoci, corsa ancora che deve cominciare, quindi non si dia per scontato un successo che all'Italia manca, esclusa l'esperienza delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, proprio da un'altra Roma, quella del 1960. Decisione, quella del CONI, che ha suscitato polemiche, dibattiti, discussioni, perché Venezia era anche la rappresentante del Nord Italia, sostenuta politicamente dalla Lega, partito fondamentale nell'attuale scenario politico. E allora andiamo a sentire anche le reazioni proprio di carattere politico che sono scaturite da questa decisione. Prima di tutti, obbligo il sindaco della città vincitrice. Allora, Gianni Alemanno, così ha commentato la scelta del CONI. Non è solo la candidatura di Roma, è la candidatura dell'Italia. Roma è stata scelta dal CONI perché è la città che può vincere più facilmente fra le varie città italiane, quindi far vincere l'Italia. Ed è molto importante perché nel 1960 le Olimpiadi a Roma rappresentarono una svolta, furono l'inizio del boom economico. Le Olimpiadi 2020 possono essere l'inizio di una nuova fase per il paese di grande rilancio nell'economia globale. Il costo economico complessivo è di 10 miliardi di euro, ma soltanto 1,5 miliardi sono nuovi investimenti pubblici, gli altri sono soldi o già stanziati o soldi privati. Fa polemiche politiche sulla scelta del CONI, si deve ricordare innanzitutto questo, che c'è una valutazione secondo i parametri del CIO. Io non sono preoccupato delle reazioni a caldo perché capisco che c'è un aspetto emotivo, c'è anche un'appartenenza, insomma un dato di tifo che in qualche modo poteva stare su Roma o su Venezia, quindi lo ritengo fisiologico. L'importante è che da domani e comunque prima che il CIO cominci a valutare la candidatura si ricomponga l'unità del paese da tutti i punti di vista, sia politico, sia economico, sociale e territoriale. Quindi da questo punto di vista lavoreremo intensamente e io credo che Venezia sia una grandissima sede per qualche evento internazionale. Questo quindi Gianni Alemanno, sindaco di Roma, che da oggi lavora per rendere credibile questa candidatura, tante le cose da fare, anche se poi l'esperienza del 1960 dal punto di vista politico ha sicuramente un grande impatto, ma è chiaro che le Olimpiadi oggi richiedono infrastrutture, investimenti, organizzazione, trasporti, quindi la città eterna dovrà dimostrarsi all'altezza del suo blasone. Come l'hanno presa i veneziani? Beh, dire male è poco, direi anzi malissimo, a sentire come ha reagito il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni. Sento molto deluso e devo dire trovo questo modo di comportarsi del CONI a dir poco vergognoso, perché era una decisione scritta da prima e quindi in quanto tale non può che lasciare un amaro in bocca, perché dimostra tutta l'insufficienza dei vertici del nostro sport italiano, che negli ultimi tempi hanno inanellato solo insuccessi nelle varie manifestazioni internazionali. Credo che sia una delusione non solo del sindaco di Venezia, ma di tutto il Veneto, non solo di Venezia, ma di tutto il Veneto, perché vuol dire che a fronte di una candidatura di Roma non si può presentare nessun'altra candidatura seria come è stata la nostra, perché viene bocciata a priori. Beh, ma insomma, è assolutamente ridicolo dire che Venezia non è in grado di gestire eventi internazionali quando è la città in Italia che ha più presenze di turisti, anche più di Roma. Quindi questo mi sembra la dica lunga sulla serietà e sulla obiettività con cui è stata fatta questa scelta. Insomma, l'avevamo detto, Venezia veramente arrabbiata per questa scelta, e altrettanto lo sono stati i rappresentanti della Lega, anche se poi il leader della Lega, Umberto Bossi, ha provato a mitigare l'amarezza dei suoi compagni di partito. Roma quindi ha vinto perché più grande, più esperta di organizzazione di grandi eventi, e anche perché agli occhi dell'opinione pubblica internazionale rappresenta una garanzia. Detto questo, la corsa è del tutto aperta, come sottolineavamo, e allora quali possono essere le possibili avversarie? Si fanno i nomi di Istanbul, Tokyo, Madrid, la grande sconfitta delle ultime selezioni, e poi anche i rappresentanti delle economie emergenti, uno su tutto New Delhi con l'India, dopo che, lo ricordiamo, nel 2016 le Olimpiadi saranno ospitate da Rio de Janeiro, dopo l'edizione del 2012 che verrà invece organizzata da Londra. E allora la nostra Maria Chiara Grandis, oltre ad aver raccolto i contributi che già abbiamo ascoltato, ha poi intervistato il presidente del CONI Gianni Petrucci a commento del voto, e per capire quanto effettivamente sia possibile per Roma ospitare i giochi del 2020. So benissimo che chi non ha avuto il risultato sperato sia amareggiato. Noi dovevamo fare una scelta, e quando si fa una scelta si lascia sempre degli scontenti. Mi auguro che però, dopo i documenti obiettivi che sono sotto gli occhi di tutti, ci si renda conto che Roma aveva questa possibilità. Presidente, ce la può fare l'Italia adesso? Me lo auguro, non sarà facile, però noi abbiamo capacità organizzativa, appeal, risultati precedenti storici di grande fascino e di grande realtà. Queste le voci dei protagonisti di questa decisione che fa di Roma la candidata italiana ad ospitare i giochi del 2020, ma nostro ospite in diretta è uno dei simboli, dei grandi simboli dell'altra Olimpiadi di Roma, quella del 1960, finora l'unica, speriamo che ce ne sia nel 2020 il quanto mai desiderato bis. Beh, Livio Berruti, medaglia d'oro sui 200 metri, piemontese che proprio a Roma ha vissuto il momento più bello della sua straordinaria carriera, con quell'oro, un doppio record del mondo. Immagino una grande emozione a sapere che Roma torna in corsa per i 500. Vero? Ma certamente è una cosa molto bella, anche perché l'atmosfera di Roma è stata talmente unica, talmente ricca di contenuti etici, di contenuti ideali, di contenuti affettivi, che penso, se si potesse ritornare, forse riusciremmo a ridare un volto più umano a delle Olimpiadi che stanno diventando un po' troppo elefantiache. È vero, e adesso ci arriviamo su questo tema, però dicevamo, tu uomo del nord che hai vissuto a Roma questa pagina straordinaria della tua vita, della tua carriera, come hai visto anche queste polemiche, no, a livello politico tra... Ma io penso che c'è stato un po' di demagogia più che politica campanilistica, perché in Italia per il campanile è quello che sovrasta tutti gli altri sentimenti, e Roma dalla sua ha un colore, una tradizione, un'esperienza, soprattutto un patrimonio di strutture che ben si adattano anche a rifare le Olimpiadi, devono solo essere, diciamo, rinfrescate e completate. Mentre invece, mi dispiace per Venezia, che io ammiro molto di vivere Veneto, però purtroppo lì c'è da ricostruire tutto ex novo, quindi una spesa che secondo me in questi momenti, in questi anni di risparmio, è del tutto improponibile. Dicevamo tra l'altro che quelle di Roma 1960 passarono alla storia, oltre che per la tua impresa, per quella di tanti altri campioni, ne ricordiamo solamente uno, un certo Cassius Clay, anche per la dimensione umana di quei giochi, no? Direi che quello è il patrimonio più importante che va salvaguardato, al di là della sede e delle polemiche politiche. Infatti, sì, sono state Olimpiadi dal volto umano, dove tutti ci si sentiva, se non amici, almeno partecipi di una bella festa dello sport, senza discriminazioni, senza differenze. Non c'era nessuna differenza né di carattere etnico, né di carattere ideologico, né di carattere confessionale, né economico. Cioè, veramente eravamo tutti uguali, grandi sorrisi, ci cercavamo di comunicare, di dialogare, e non c'era soprattutto quel condizionamento che ahimè sarà dato più avanti dal mondo più che politico economico, dove sono nati gli sponsor, sono nati tanti interessi extrasportivi che hanno fatalmente condizionato la libertà degli atleti. In questa corsa al 2020, Livio, quali potrebbero essere i punti di forza ma anche i punti di debolezza su cui Roma deve lavorare? I punti di forza di Roma sono appunto quell'umanità, quel colore e quel calore che ha dato, quel senso di fraternità che è stato ammirato da tutti e che ha, dato la possibilità anche a uno scrittore per il premio Pulitzer americano di scrivere un bel libro sulle Olimpiadi di Roma che ha definito le migliori dell'epoca moderna. I punti deboli sono che purtroppo le Olimpiadi sono diventate un esempio, un evento talmente più importante del fatto sportivo che ormai diventa più un fenomeno di natura geopolitica piuttosto che geosportiva, per cui ritornare in Europa e in Italia forse è più difficile piuttosto che andare a scoprire paesi nuovi, nazioni emergenti che forse hanno la necessità di farsi vedere, di farsi notare, di farsi quindi un background di immagine di cui Roma ovviamente non ha bisogno. C'è, Livio Berruti, un'immagine di quella Roma 1960 che ti senti di ricordare come augurio per questa nuova candidatura proiettata nel 2020? Ma forse l'immagine più bella è stata quando dopo la vittoria l'atleta che è arrivato terzo, il franco senegalese di colore molto scuro, è venuto ad abbracciarmi e ci siamo così sentiti uniti da questa gioia, quindi senza un'assoluta mancanza di discriminazione di colore, e questo è stato forse il messaggio che inconsciamente ho dato alle Olimpiadi, insieme a quello nelle mie passeggiate nel villaggio olimpico con la Vilma Rudolf mano nella mano, anticipando così di 3 anni quel famoso messaggio di Martin Luther King quando aveva detto: io ho un grande sogno, vorrei vedere un bianco e un nero andare in giro mano nella mano. Noi senza volerlo l'abbiamo anticipato. E beh, che Roma 2020 faccia allora tesoro di questi ricordi, di questo augurio e di questo messaggio che arriva dal grande signore delle volate dell'atletica leggera, Livio Berruti. Grazie per essere stato nostro ospite a bordo campo. Grazie a voi, tanti auguri, grazie. A bordo campo. A bordo campo oggi torna all'Aquila, lo facciamo periodicamente da quel 6 aprile 2009 perché vogliamo vedere come questa città sta lottando anche attraverso lo sport per rinascere, per risorgere da quel tragico terremoto. Proprio lo sport sta dando dei segnali preziosi agli aquilani e a tutta la città e sta indicando in qualche modo una delle possibili vie per tornare a vivere, lo sappiamo, l'Aquila Calcio, l'Aquila Rugby, insomma il rugby aquilano è un po' una religione, una tradizione, ma oggi 6 giugno c'è proprio un matrimonio del tutto particolare tra la palla ovale del rugby e una palla altrettanto ovale, un pochino più appuntita, ma che sta conquistando parecchi appassionati qui in Italia. Parlo della palla ovale del football americano. Ci spiega tutto Claudio Minguzzi, consigliere federale della Federazione Italiana Football Americano. Ebbene Claudio, benvenuto. Grazie. A bordo campo. Perché oggi all'Aquila questo matrimonio tra le palle oblunghe? Sono palle oblunghe, ma hanno un contenuto che è un contenuto praticamente identico. Entrambi questi sport sono sport di conquista, di fatica, non sono sport improvvisati, sono sport che richiedono una preparazione, una costruzione dell'evento stesso. Quindi ci è sembrato bello, abbiamo lanciato l'idea all'Aquila e l'Aquila Rugby ha accettato e ha risposto in maniera più che positiva. Allora, Federazione Italiana Football Americano, l'Aquila Rugby, Lions Club Italia, tutti insieme per organizzare l'evento che sta per iniziare proprio in questi minuti, no? Il Super Bowl della Federazione Italiana Football Americano. In campo chi va? All'Aquila, allo Stadio Fattori, no? Alla casa dell'Aquila Rugby, stavolta che diventa la casa del football americano. Per il 30esimo Super Bowl. Quest'anno sono arrivati in finale i Red Jackets di Luni e i Bengals Brescia. Beh, abbiamo già in collegamento i rappresentanti delle due società praticamente dagli spalti del Fattori, ma innanzitutto il piacere di ospitare il vice sindaco dell'Aquila, assessore allo sport Giampaolo Arduini. Beh, dottor Arduini, benvenuto a bordo campo. Stavolta vi è toccato far spazio alla palla ovale del football americano. Come l'hanno presa gli aquilani? Bene, bene, gli aquilani l'hanno presa bene, è stato un piacere per noi fare spazio al football americano. E poi voglio dare una chicca: proprio ieri, cioè sabato 5 giugno, ricorreva l'anniversario della morte, della scomparsa di Tommaso Fattori, a quale è intitolato lo stadio. Tommaso Fattori è stato la persona che per prima ha introdotto lo sport del rugby all'Aquila. Non a caso questo stadio oramai è divenuto uno stadio monumentale per noi, in quanto è uno stadio antichissimo, realizzato negli anni 30, è stato intitolato molti anni fa Tommaso Fattori. Ieri era appunto il 50° anniversario della scomparsa di Tommaso Fattori ed è una bella ricorrenza il fatto che in questa occasione uno sport come il football americano si affacci per la prima volta all'Aquila, città di rugby, città della palla ovale, non c'è dubbio. Accolto con entusiasmo, accolto con la dovuta attenzione da una città che comunque ha un connubio speciale con la Pallovale. È una città regnisticamente parlando che ha una storia, una tradizione, una cultura, 5 scudetti sulle maglie dei neroverdi, una città che quando vede la Pallovale si emoziona sempre e questo per noi è una bellissima risposta, è una bellissima, un bellissimo punto di partenza per uno sport che si affaccia per la prima volta all'Aquila. Saremo curiosi, anzi siamo curiosi di vederlo. Ecco, dottor Arduini, tra l'altro un appuntamento che si inserisce in quella che è la giornata dello sport dell'Aquila. Insomma, le varie attività sportive, le varie squadre stanno dando un contributo importante per indicare quale può essere una strada per rinascere, no? Sì, guardi, la giornata dello sport è proprio quella odierna, stamane ci sono stati degli appuntamenti importanti organizzati dal CONI che ha voluto celebrare la giornata dello sport proprio all'Aquila, a qualche centinaia di metri dallo stadio Fattori, in un'area molto bella, quella del castello cinquecentesco, un castello molto, una fortezza, che però neanche questa è riuscita a resistere in parte al terremoto del 6 aprile dell'anno scorso, perché il nostro problema è oggi quello di ricostruire, quello di ripristinare, quello di ridare gli impianti sportivi ai cittadini. Purtroppo il terremoto, oltre ad aver disastrato un'intera città, una collettività, un territorio, ha creato un altrettanto grosso problema negli impianti. I nostri impianti si sono messi a disposizione, è proprio il caso di dirlo, perché autonomamente sono stati aperti la notte stessa del 6, quasi fossero pronti, spalancati, ad essere aperte le braccia per dire, per accogliere tutti gli aquilani che si sono recati su questi impianti, e sono stati proprio coloro i quali hanno poi tributato la maggiore attenzione agli impianti stessi, perché questi impianti hanno sopportato le 176 tendopoli che si sono nate all'Aquila durante il post terremoto. Ebbene, purtroppo però è accaduto, come spesso succede in Italia, che coloro i quali si sacrificano poi non vengono ricompensati. Nel caso specifico qua la ricompensa era quella di ripristinare gli impianti come erano precedentemente, cercando di togliere tutto quello che una tendopoli può lasciare. Una tendopoli è una città che si chiude, che si abbandona, che vive e pulsa durante nel momento in cui vive, nel momento in cui c'è, nel momento in cui viene abitata, ma subito dopo diventa un cimitero. Oggi i nostri impianti sono davvero un cimitero, se non peggio, e stiamo veramente patendo le proverbiali 7 camicie di sudore perché non riusciamo ad avere l'attenzione dovuta per aprirli, riaprirli, ridarli alla collettività. Purtroppo la Protezione Civile non ci ha mantenuto gli impegni presi a suo tempo, non ha concesso ancora i finanziamenti, speriamo che ciò accada presto per ridare degli spazi fruibili a tutte le attività sportive, altrimenti rischiamo che questa manifestazione odierna, che ci auguriamo si possa ripetere nel tempo, e tante altre che ci sono state e ci saranno, potrebbero non esserci più perché l'Aquila non è in condizione di avere gli impianti a disposizione. Un solo impianto oggi c'è per calcio e rugby e anche per il football americano oggi. Era lo stadio fattore, non è sufficiente per una città di 75.000 abitanti che aveva più di 20 impianti a disposizione, impianti sportivi, campi da gioco che oggi invece sono purtroppo malinconicamente abbandonati. Speriamo davvero che anche questo appuntamento contribuisca a sbloccare questa situazione e lo ricordiamo, stiamo ancora aspettando all'Aquila, la cittadella dello sport, se ne è parlato molto, l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby hanno provato a unire le forze sul campo per questa città dello sport, ancora si deve fare molto, direi, usando un eufemismo. Grazie al dottor Giampaolo Arduini, vice sindaco di L'Aquila e assessore allo sport, lo lasciamo ai suoi lavori, so che sta lavorando proprio ai progetti sportivi cui faceva riferimento. Claudio, abbiamo qualche minuto, prima di introdurre i nostri due ultimi ospiti, aiutaci a capire dal punto di vista tecnico che Super Bowl sarà questo che sta per iniziare all'Aquila. Sarà un gran bel Super Bowl, perché da una parte abbiamo una squadra come i Bengals completa sui lanci, sulle corse, ma anche con una buona difesa, ma dall'altra parte abbiamo una squadra come i Red Jackets che non sono assolutamente da meno. Anzi, ti dirò di più, che sono le due squadre che hanno... Bengals sono a stagione netta, cioè quindi 8 vittorie su 8 giocate, e i Red Jackets sono a 7 e una persa, per cui... Non stiamo parlando di squadre materasso da nessuna parte, sono due gran belle squadre e soprattutto sono due squadre che hanno un grande settore giovanile, che è la cosa più importante. Infatti è importante per far crescere questo sport e soprattutto anche per l'attività a cui vengono coinvolti molti ragazzi. Allora, subito i protagonisti in campo, il presidente dei Red Jackets Luni, Massimo Milani. Benvenuto a bordo campo, presidente. Insomma, conto alla rovescia, come va a finire questa sfida? Questa sfida sarà sicuramente molto molto combattuta e speriamo che vada nel migliore dei modi, un po' per tutte le squadre, soprattutto anche per la nostra. Noi siamo una squadra giovane, siamo una squadra di giovani e cerchiamo di fare il più possibile per poter ottenere il massimo e abbiamo lottato, abbiamo fatto tantissimo per questo campionato per poter arrivare a questa massima espressione che poi dopo è il Super Bowl. Andiamo nel campo dei Bengals Brescia col direttore generale Enzo Uliano. Dottor Uliano, allora ci si gioca il Super Bowl nel segno dell'Aquila che rinasce, direi un'occasione ancora più importante. Ma noi siamo estremamente, ma veramente molto orgogliosi di far parte di questa avventura per l'Aquila. Siamo veramente contenti e ringrazieremo per sempre la Federazione Italiana Football Americano, la FIFA, per aver scelto questa location, perché è un'occasione veramente per continuare quel modello educativo che stiamo dando ai nostri ragazzi, che fanno sì sport, si divertono, e vanno sulla parte agonistica, ma devono assolutamente imparare e devono interiorizzare il fatto che loro poi devono giocare, devono fare la loro attività anche per chi non la può fare, oppure devono mettere a disposizione il loro talento per riuscire ad avere, a costruire qualche cosa per qualcuno più sfortunato. In questo momento l'Aquila è stata la scelta, come dicevo, migliore e vedo negli occhi, nel cuore dei ragazzi veramente questa grande gioia di giocare questa partita in questo ormai mitico impianto, ma soprattutto in mezzo a questa gente aquilana che abbiamo sempre voluto cercare di avvicinare, non l'abbiamo mai fatto per problemi logistici e la federazione ci ha dato veramente in questo momento, in questa occasione, la possibilità di poter così coronare un sogno, quello di portare i ragazzi all'Aquila per fare qualche cosa, per essere solidali e per essere presenti nella terra dei nostri amici aquilani. Allora, che dire, vinca il migliore, ma soprattutto vinca il football americano, certo, ma in particolare oggi vinca l'Aquila. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. L'appuntamento è per domenica prossima, sempre alle 14:30. Un saluto da Dario Ricci.